fantomma lamentò, ombre nell'oscurità del nostro mese. Ego su, quan su, stirpe diabolica, proliferazione e dissoluzione. Generalis umani, peccato captivati, extraviazione ade natura. Sfera con il tenebrato locale, trasmuto.